Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko from Bologna, che va in onda sui 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna. Ultima trasmissione di luglio, siamo al 31, nonché ultima trasmissione per quel che riguarda la prima parte di questo 2024 e poi ci prenderemo un po' di ferie, come del resto anche tutti gli altri colleghi della radio. Tornerò verso la fine del mese e vediamo se il caldo sarà calato in quel della fine di agosto. Comunque, Città Fujiko Live Club è la trasmissione che è iniziata come sempre con un brano che si chiama Laila, brano di Eric Clapton, che è il protagonista della prima parte di oggi. Infatti, credo per la prima volta nella mia oramai lunghissima carriera radiofonica farò una monografia, e la monografia è appunto quella di Eric Clapton. A offrirne la possibilità è l'ultima uscita discografica di quello che viene chiamato Slow Hand. È un album che si chiama To Save a Child, è un CD più DVD, quindi un combo come si suol dire, si chiama To Save a Child, l'ho già detto, è un Intimate Live Concert, è un concerto che Eric Clapton e la sua band hanno fatto nel dicembre scorso, l'8 dicembre per la precisione del 2023, davanti a un pubblico non numerosissimo, anzi, per raccogliere fondi per aiutare i bambini di Gaza che hanno un bel po' di problemi purtroppo per loro. È stato pubblicato questo dischetto, che è molto interessante, anche se Clapton non ha più niente da spiegare, non ha più niente da dimostrare, è solamente un grandissimo della nostra musica. L'album, lo ripeto, non mi stancherò di dirlo quest'oggi, perché oltre ad essere un buon album è una cosa benefica, e quindi speriamo che tutti i soldi possibili vadano appunto per aiutare i bambini palestinesi. Il brano che ci andiamo ad ascoltare, con cui apro questa trasmissione di oggi, interamente la prima parte, ripeto, dedicata a Eric Clapton, è un brano che lui ha suonato in questo 8 dicembre 2023 insieme a Danny Harrison, il figlio del suo grande amico fraterno George Harrison, che chiaramente spero non abbia bisogno di presentazioni. Il brano è un pezzo che viene da uno degli album più famosi di George Harrison, si chiama Leaving the Material World, che è un album del 1973, e appunto Eric Clapton e Danny Harrison ci regalano questa Give Me Love, Give Me Peace on Earth, e non è un caso che questa canzone apra la trasmissione di oggi. I'd like to invite a friend of mine, Mr. Danny Harrison, to join me on this one. Thank you. È stato registrato negli RD Studios di Londra questo mini concerto, che poi è stato inserito in To Save a Child, l'album che vi propongo oggi come novità e che mi dà il destro per parlarvi di Eric Clapton, uno dei miei grandi idoli fin da quando ero bambino. Uno dei primi singoli che ho comprato era Crossroads di Cream, questo ne parleremo fra un po'. Che dire di Eric Clapton? Spero che lo conosciate e lo apprezziate tutti. C'è da dire che se chi di voi lo conosce solo tramite, diciamo, gli ultimi 20 anni, non può capire appieno questa mia passione per Eric Clapton, che al tempo dei Cream cambiò radicalmente la musica rock mondiale. Magari ne parlerò fra un po'. Giusto un piccolo assaggio di biografia. Eric è nato a Ripley nel Surrey, naturalmente Gran Bretagna, il 30 di marzo del 1945, quindi ha già una certa età, e ha iniziato a suonare la chitarra a 12 anni e già in tenerissima età ha cominciato a fare, se non il professionista, il semiprofessionista. Infatti la sua prima band era una band di ragazzi molto giovani, semiprofessionisti, si chiamava Rooster, ma ben presto, nel 1963, nell'ottobre del 63, entrò negli Yardbirds, gruppo che ha avuto una importanza storica nel blues britannico. È un gruppo che accompagnava spesso i musicisti blues americani che arrivavano in tour in Gran Bretagna da soli, e loro facevano da backing band appunto a questi artisti. C'è un album molto bello, anche se inciso chiaramente come si può, che vede appunto gli Yardbirds insieme a Sonny Boy Williamson. È molto bello. Gli Yardbirds fecero un album che si chiamava Five Light Yardbirds, un long plane, che uscì nel 1964, contenente registrazioni live effettuate al Marquis di Londra il 20 marzo di quell'anno. Fra l'altro la band esiste ancora con diverse interruzioni, ma l'unico membro originale rimasto è Jim McCarty, il batterista, ma è tutta un'altra storia. Gli Yardbirds ce ne andiamo ad ascoltare appunto da questo Five Live, che è stato poi riproposto in tempi più recenti, ampliatissimo, è diventato un CD con un sacco di brani aggiunti, che è consigliatissimo naturalmente. E a quell'epoca chiaramente gli Yardbirds facevano un sacco di covers, e questa è una di quelle che apre l'album. Si chiama Too Much Monkey Business, loro sono gli Yardbirds. Good evening and welcome, and now it is time for Birdmerizing, Yardmerizing, in fact, most blues wedding, Yardbirds. Here they are, one by one. The drums, Jim McCarty. The rhythm guitar, Chris Dreyer. The bass, Paul Samuel Smith. Lead guitar, Eric Slohan Clapton. The singer and harp, Keith Rell. Five live Yardbirds. So you can buy gold shots, you can pay me next week. Too much money, too much money, too much money, too much money. time for telling me a tale. I too much money, baby, too much money, crew, I'm a fool, I'm a fool. Whoa! 2 miles, monkey business. 2 miles, monkey business. 2 miles, monkey business. I mean, if they're involved in I'm working in the village section. Too many tires, one of them. Check the tires, check the a dollar gas now. 2 miles, monkey business. 2 miles, monkey business. Con tanto di introduzione, questi Yardbirds live nel 1964 al Marquis di Londra, Too Much Monkey Business, una delle tante covers che facevano. Poi a un certo punto la band decise di diventare un po' più pop, fecero un singolo che si chiamava For Your Love, che ebbe un successo strepitoso, nel momento del quale però, nel momento dell'uscita di questo singolo For Your Love, Clapton se n'era già andato perché appunto gli Yardbirds stavano, secondo lui, prendendo una piega un po' troppo poppeggiante, e lui era un purista, voleva fare del blues, e cosa fece? Andò nella band di quello che è considerato il padrino del blues britannico. Purtroppo è venuto a mancare la scorsa settimana, per cui è un doveroso ricordo di John Mayall, che è stato un grande della musica blues di tutti i tempi e che ha introdotto la musica blues a un sacco di musicisti e ragazzi bianchi britannici ed europei in genere. I suoi Blues Breakers cambiavano formazione praticamente ogni album, e lui li fondò nel 1963, poi ha riesumato il nome, ha eliminato il nome e riesumato il nome stesso diverse volte. Il brano che ci andiamo ad ascoltare arriva da un long play in vinile che è stato pubblicato nel 1977, ma comprende tutte le registrazioni antecedenti, anche di molto, perché quella che ci andiamo ad ascoltare è stata registrata nel 66. Si chiama Primal Solos perché ci sono un paio di chitarristi che girano per questo long play. Uno è Eric Clapton, naturalmente, poi c'è Mick Taylor, c'è Jeff Beck, che è uno dei chitarristi che sostituì Clapton nei Blues Breakers. Ma andiamo avanti, perché stringere 60 anni e più di carriera di Clapton in un'ora è praticamente impossibile, quindi più musica possibile e poche chiacchiere. Registrato al Flamingo Club di Londra il 30 aprile del 66 insieme a Jack Bruce, dopo ne parleremo anche di lui. Ci andiamo ad ascoltare questo super classico della musica blues che Clapton iniziò a suonare con Blues Breakers e suona tuttora nei suoi concerti. Have You Ever Loved a Woman by Billy Miles, ma portato al successo da Freddie King nel 1960. Thank you. trouble and pain. Crossroads, fell out on my knees. Nel luglio del 1966 Eric Clapton lasciò i Blues Breakers, voleva ampliare il proprio orizzonte musicale, non in senso di cambiare genere, rimaneva sempre nel blues, ma voleva ampliare le improvvisazioni, fare pezzi lunghi, fare cose anche sue naturalmente, e si mise insieme a Jack Bruce al basso e Ginger Baker alla batteria, che aveva già conosciuto tramite i Blues Breakers e la Grand Bond Organization, un'altra accademia del blues britannico, e fecero questo super trio, uno delle prime super band, i primi super gruppi in assoluto, che non mi stancherò mai di dirlo, cambiarono assolutamente la concezione musicale di tantissimi ragazzi, compreso chi vi sta parlando, e non solo ragazzi. Fecero solamente due album in studio più altri due album che sono metà registrate in studio e metà registrate dal vivo, più postumi dopo lo scioglimento del maggio del 1968, quindi durarono praticamente poco meno di due anni. Sono usciti altri quattro album live che prendeteli tutti, devo dire solamente così. Crossroads è il pezzo che ci siamo ascoltati, una cover di un brano di Robert Johnson, grande bluesman, viene da Wheels of Fire, uno dei due album che erano metà studio e metà dal vivo. La metà dal vivo è stata registrata al Winterland di San Francisco il 10 marzo del 1968 e, come dicevo in precedenza, è stato uno dei primi singoli che ho comprato con i miei soldini e che è stato il primo dei Cream e di Eric Clapton in assoluto che io abbia mai comprato. Mm. come vi dicevo, i Cream durarono fino al 1968 e l'anno dopo Eric Clapton si mise insieme a Stevie Winwood, che intanto aveva avuto un grande successo con i Traffic e prima ancora con lo Spencer Davis Group, e formarono una band che si chiama Blind Faith e che vedeva in scena ancora Ginger Baker alla batteria e Rick Rich, bassista violinista che proveniva dai Family. Hanno fatto un album solo e un tour di 3 mesi, a un certo punto andarono negli Stati Uniti e lì proprio scoppiarono gli egos di Eric Clapton e di Steve Winwood, che rovinarono tutto. Comunque, anche l'unico album che hanno fatto è consigliatissimo. Per trovare qualcosa dal vivo dei Blind Faith, o Blind Faith, chiamateli come volete, bisogna andare su un'antologia, una quadrupla antologia di Steve Winwood che si chiama The Final Thing. Lì ci sono i 2 unici brani live dei Blind Faith che potete trovare in giro, ufficiali. Poi ci sono una serie di album di bootleg molto molto interessanti che comprendono anche loro questo brano che ci andiamo ad ascoltare. Guarda caso, un altro classico del blues di Sam Mayers, che si chiama Sleeping Ground. Loro sono Blind Faith. Thank you. We're going to do a number called I'd Rather See You Sleeping in the Ground. Thank you. È stato registrato da Hyde Park in London, questo Sleeping in the Ground, Sleeping Ground anzi, che è compreso nel cofanetto The Final Thing di Stevie Winwood, ma in realtà è un brano dei Blunt Faith che fa la coppia con quest'altro che è in sottofondo, che è una cover dei Rolling Stones che si chiama Under My Thumb. Due brani, gli unici due brani ufficiali dei Blunt Faith che potete trovare in giro. Sempre nel 1969 Eric Clapton partecipò al concerto che la Plastic Ono Band tenne in quel di Toronto e dal quale è stato tratto un album che si chiama Live Peace in Toronto 1969, sul quale però passo oltre, perché durante il tour americano dei Blind Faith Eric Clapton conobbe il gruppo di supporto che si chiamava Delaney and Bonnie and Friends, capitanato appunto dalla coppia Delaney and Bonnie. I Friends cambiavano un po' praticamente tutti i giorni, ma erano sempre grandi fiorfiori di artisti. E a questo punto Clapton aveva un grosso problema, non ci crederete, ma era troppo famoso. Lui non voleva essere così famoso, non voleva essere assolutamente al top delle classifiche, lui voleva suonare e basta. E infatti, dopo lo scioglimento dei Blunt Faith, lui si unì a Delaney and Bonnie and Friends per un tour americano e suonava sempre, se non in seconda fila, in terza fila, però la gente lo sapeva e andava a vedere Eric Clapton accompagnato, fra virgolette, da Delaney and Bonnie and Friends. Da quell'esperienza fu tratto un album che si chiama On Tour with Eric Clapton, che è stato pubblicato nel 1970, che fu registrato durante un mini tour in Gran Bretagna. Era un long play che uscì nel marzo 1970, ma alcuni anni dopo, nel 2010, uscì uno splendido cofanetto, proprio anche come oggetto, è proprio un cofanetto, di 4 CD che comprendeva tutti e 4 i concerti che la band aveva tenuto negli Stati Uniti. Ce l'andiamo ad ascoltare dal concerto alla Royal Albert Hall di lunedì 1 dicembre 1969. Questo pezzo si chiama All You Know and I Know. Loro sono Delaney, Bonnie and Friends with Eric Clapton. Take me around. Siamo in dicembre del 1969, Royal Albert Hall di Londra, di Lenny and Bonnie and Friends with Eric Clapton, uno dei tanti concerti che Eric Clapton ha fatto alla Royal Albert Hall, detiene il primato assoluto con più di 200 concerti in quello splendido teatro londinese. Ma anche l'esperienza con The Lenny and Bonnie and Friends finì nel momento in cui Eric Clapton conobbe Duane Allman, eccellente chitarrista, leader della Allman Brothers Band insieme al fratello Greg, e i due formarono una band che si chiama Derek and the Dominos. Fecero un solo album, ma un album che è assolutamente imprescindibile per qualsiasi amante della buona musica. Si chiama Lila and All Their Assorted Love Songs, veramente incredibile. Il problema è che Duane Allman non abbandonò l'Allman Brothers Band, per cui non suonò mai dal vivo, forse, dice la leggenda, un paio di volte, ma non di più. Però in studio suonò e come e si sente. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è tratto da un album doppio CD che si chiama Live at the Fillmore, è stato pubblicato nel 1994 ed è la versione espansa del doppio long play che uscì nel 1973, che si chiama In Concert. Ci andiamo ad ascoltare il brano più corto perché oramai il tempo sta veramente incombendo, e il tutto registrato il 23 di ottobre del 1970, secondo show, come succedeva allora, c'erano due show al giorno o a sera, e il pezzo si chiama Bottle of Red Wine, la bottiglia di vino rosso, Derek and the Dominos live. Avrebbe potuto chiamarsi Eric Clapton Band, ma come già successo in precedenza, Clapton non voleva apparire in prima persona, per cui la band si chiamò Derek and the Dominos, band nella quale Eric Clapton assunse, o rubò per meglio dire, tre musicisti, Adeline and Bonnie and Friends, tre super musicisti. Ci siamo scontati questo brano, Bottle of Red Wine, dall'album doppio CD In Concert, Derek and the Dominos. Molto velocemente, a questo punto, come vi dicevo, è impossibile racchiudere oltre 60 anni di carriera di Eric Clapton in un'ora scarsa, per cui vi dico solamente che nel periodo di Derek and the Dominos, dal 70 al 71, esplosero i problemi di droga di Eric Clapton, che veramente era fatto come un copertone, come si suol dire, e abbandonò la musica per un paio d'anni, a parte il concerto per il Bangladesh organizzato dal suo amico George Harrison, che lo vide partecipare nell'agosto del 71. A convincerlo a tornare furono i suoi amici Pete Townshend e Ron Wood, che insieme a Stevie Winwood, sempre lui, organizzarono un concerto di ritorno, il famoso Rainbow Concert, dal quale ci andiamo ad ascoltare questo brano, che è un brano dei Cream, che si chiama Badge, e che conclude questa prima parte dedicata alla carriera di Eric Clapton. Poi, appena possibile, ce ne sarà una seconda. My friends for a mile. time. Bought bootleg liquor, champagne and wine. And I began to fall so low. Lost all my good friends, had nowhere to go. I get my hands on a dollar again. I'll hang on to it till that eagle grins. Nobody knows you when you're down and out. In your pocket, not one penny. And as for friends, you don't have any. When you get back on your feet again, everybody wants to be your long-lost friend. I said it's strange, without any doubt. Nobody knows you when you're down and out. Seconda parte dell'ultima città Fujiko Live Club, ultima per la stagione 2023-2024, poi alla fine di agosto inizierà la stagione 2024-2025, ma intanto godiamoci questa seconda parte che è iniziata con la cover di un brano di Jimmy Cooks, un brano del 1923, però reso famoso da Bessie Smith nel 1939. Il brano si chiama Nobody Knows When You're Down and Out, altro brano che Eric Clapton fa da un sacco di tempo e che è inserito in questa novità che vi propongo quest'oggi. L'album di Eric Clapton si chiama To Save a Child e racchiude un mini concerto che Eric Clapton e la sua band hanno fatto per raccogliere fondi per aiutare i bambini in quel di Gaza che, come vi ho detto in precedenza, come sapete sicuramente meglio di me, hanno problemi a non finire. Comunque nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva sempre Record It Today, i brani che sono stati registrati nella giornata odierna, nel corso degli anni, anche oggi tantissime cose, e anche oggi il criterio è quello di un brano per ogni decade. Iniziamo dal 1971, ve li ho fatti ascoltare parecchio recentemente, forse vi ho anche stancato, ma come nel caso di Eric Clapton, una band che ho amato amo tuttora tantissimo, è quella degli Yes. Loro sono formati nel 1968, ma allo stato attuale non c'è nessun membro originale della formazione che appunto partì nel 1968. Tralascio ogni considerazione sulle ultime mosse della band e ci andiamo ad ascoltare questo pezzo che è inserito in un triplo CD live, un triplo cofanetto molto molto bello che vede la storia live degli Yes dal 1968 appunto al 1988. Siamo in attesa di un proseguio di questa storia musicale, di questa storia live musicale degli Yes. È registrato al Crystal Palace di The Bowl di Londra il 31 luglio del 1971. Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare, uno dei grandi classici della band, bellissimo secondo me, uno dei miei brani della top 10, si chiama I've Seen All Good People, Your Move. Loro sono Yes dal 1971. We're gonna do a song also from the third LP featuring Thrasher Steve over here on his Vocalia. And this song is in two parts. The first part is called Your Move. The second part, I've Seen All Good People. Thank you very much. I've seen all good people turn their heads each day. So satisfied, I'm on my way. I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way. Got time Siamo a Londra, esattamente il 31 luglio del 1971, Crystal Palace Bowl, e gli Yes sono in ascesa nelle classifiche mondiali sia dal punto di vista, diciamo, delle vendite, che dal punto di vista della considerazione della critica, e anche dal punto di vista del riscontro di pubblico. I've seen all good people, your move, come ha detto John Anderson, è un medley, sono due brani chiaramente, e quella che è la versione che ci siamo ascoltata è tratta da The World is Live, triplo CD live, molto molto molto bello. Devo ammettere che quando parlo degli Yes però sono abbastanza di parte per quel che riguarda soprattutto i primi anni della loro carriera. Gli anni 80 sono pieni di bands che badavano più al glamour che alla sostanza musicale, e che hanno avuto un singolo o due di grande successo che poi, sul quale hanno poi costruito la loro carriera. Si chiamano One Hit Wonder, che appunto è un solo singolo, un solo pezzo, una sola canzone che porta al successo una band. È il caso di questi Motels, che vengono tuttora da Berkeley, perché sono attivi dal 1975 con diverse interruzioni naturalmente, ma che al momento si chiamano Martha Davis and the Motels. Martha Davis è sempre stata la cantante della band, è l'unica membro originale della formazione. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è tratto da un CD che si chiama Atomic Cafe Greatest Songs Live, e è stato registrato in due occasioni al Paradise Theater di Boston nello stesso mese, all'inizio di luglio e il 31 luglio, che è il caso del brano che ci andiamo ad ascoltare, che guarda caso è il loro successo più grande e forse anche l'unico. Si chiama Total Control, Motels, 31 luglio 1980. Maybe Boston, Massachusetts, 31 luglio 1980, Mottles in concerto con questa loro hit che si chiama Total Control. Molto velocemente la pubblicità sta incombendo, di tutt'altro spessore la band che ci andiamo ad ascoltare adesso, si chiamano Stereophonics, sono dal Galles dal 1992 con Kelly Jones, sempre la stabile guida di questo trio che a volte diventa un quartetto. Hanno fatto una serie notevole, soprattutto nella prima parte della loro carriera, di singoli con canzoni dal vivo. Questo è uno di quelli, sono tre songs live registrate al Morpha Stadium di Swansea in Galles, praticamente a casa loro. Il brano di punta è Wouldn't Believe Your Radio, ma quello che ci andiamo ad ascoltare noi si chiama Pick Apart That's New. Loro sono Stereophonics, 31 luglio 1999. This is a song called Pick Apart, this is new. Sunrise doesn't last all morning. doesn't last all day. Seems like my love is up and has left you with no warning. It's not always gonna be this great. All things must pass. All things must pass away. Sunset doesn't last all evening. A mind can blow those clouds away. After all this, my love is up and must be leaving. It's not always gonna be this great. All things must pass. All things must pass away. All things must pass. None of life's strings can last. So I must be on my way. Face another day. Now the darkness only stays at night time. In the morning it will fade away. Daylight is good at arriving at the right time. It's not always gonna be this great. All things must pass. All things must pass away. All things must pass. All things must pass away. È assolutamente un caso che oggi ci siano due covers di brani di George Harrison, me ne sono accorto strada facendo, diciamo, ma non è un male assolutamente. Prima ci siamo ascoltati un pezzo, quello di Eric Clapton insieme al figlio di George Harrison, Danny. Questo invece era la title track del triplo album che George Harrison fece uscire praticamente dopo lo scioglimento dei Beatles, si chiama All Things Must Pass, e ad eseguirlo i Waterboys, a dire il vero in versione ridotta, versione trio, con Mike Scott, Steve Wickman al violino e Richard Neal al piano. Mike Scott è il leader dei Waterboys da sempre, e i Waterboys sono attivi dal 1983, anche in questo caso con diverse interruzioni quando Mike Scott ha tentato una carriera solista. Ma i casi strani del mondo, della vita, del mondo musicale, se Mike Scott fa album con Waterboys ha successo, se li fa come Mike Scott meno, ma è sempre lui in pratica, perché tutti i brani The Waterboys li scrive e li canta lui. If Everybody takes a tumble, don't you know? Hanno fatto due album super, i Water Boys, Fisherman Blues, e un altro ugualmente bello ma meno conosciuto che si chiama This is the Sea. Nel corso della loro carriera hanno fatto due album live più alcuni singoli e un paio di antologie con canzoni dal vivo, tutte molto belle e molto interessanti. Questo singolo che si chiama Everybody Takes a Tumble comprende la versione dei Water Boys di All Things Must Pass che ci siamo ascoltate, registrati a Radio Bremen Sensal, appunto la radio della omonima città tedesca Brema, appunto, il 31 luglio del 2003. And you just stumbled blind, babe. L'ultima cosa di Record Today di oggi arriva dal 2010, siamo in compagnia del mai troppo compianto Tom Petty e dei suoi Heartbreakers. Loro venivano da Gainesville, sono stati attivi dal 1976 fino al 2017, l'anno in cui appunto morì Tom Petty e il tutto è finito. Mojo è un album che uscì nel 2010, il penultimo album della carriera di Tom Petty and the Heartbreakers, e fu pubblicata anche una limited tour edition, che è quella che interessa a noi, che ha un secondo CD con registrazioni live effettuate qua e là per gli Stati Uniti in diverse epoche e in diverse serate. Chiaramente il brano che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato appunto il 31 luglio del 2010 in quel di Philadelphia, Pennsylvania, al Wachovia Center, che è uno mega impianto sportivo che, come molti impianti sportivi anche dalle nostre parti, si apre alla musica. Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare si chiama You Don't Know How It Feels, Tom Petty and the Heartbreakers dal 2010. Thank you. Grande band, Tom Petty and the Heartbreakers, li vedemmo anche in uno splendido concerto a Lucca ormai tanti anni fa. Questa è una registrazione effettuata il 31 luglio del 2010, Wachovia Center di Philadelphia, Pennsylvania. You Don't Know How It Feels, il pezzo che ci siamo ascoltati e che conclude appunto Record It Today di oggi. Mentre a concludere la trasmissione, l'ultima trasmissione del ricordo della stagione 2023-2024, ritorna la novità che vi propongo, che vi ho proposto quest'oggi, Eric Clapton. Ma prima vi voglio ricordare che vi siete ascoltati un paio di ore di musica dal vivo, registrata dal vivo, che si chiama pomposamente Città Fujiko Live Club, il tutto da Radio Città Fujiko 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna e naturalmente anche sul web con l'apposita app che potete tranquillamente scaricare gratuitamente dal nostro sito radiocittafujiko.it. Andiamo a concludere quindi con l'appuntamento, salvo errori d'omissione o ripensamenti, è per il 28 agosto, l'ultimo mercoledì di agosto, praticamente fra un mese, e ritorneremo belli pimpanti, ritornerò, bello, ma pimpante sicuramente. Andiamo a concludere appunto con Eric Clapton, e visto che oggi è stata una giornata di covers, quando si parla di Clapton ce ne sono veramente tantissime, in più si sono aggiunti anche i Waterboys, andiamo ad ascoltarci questo classico, super classico di Willie Dixon che si chiama Uchi Kuchi Man. Eric Clapton a concludere Città Fujiko Live Club stagione 24. Ciao a tutti da Nevio. Gypsy woman told my mother before I was born. Said you got a boy child to come, only a son of a gun. He's gonna make pretty women jump and shout, and then the world won't know. The black cat bone, I got a mojo too, I got the John the Conqueror room. I'm gonna mess with you, I'm gonna make you girl, lead me by my hand, and then the world will know. seventh day, on the seventh month, the seven doctors say he was born with good luck. That you see, I got $700.